Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Questa mattina venne a dar le medaglie il sovrintendente scolastico. La prima medaglia la diede De Rossi. Poi stette qualche momento a sentire il maestro e il direttore che gli parlavano a bassa voce. Tutti si domandavano, a chi darà la seconda? La seconda medaglia l'ha meritata l'alunno Precossi. L'ha meritata per i lavori di casa, per le lezioni, per la calligrafia, per tutto. Vieni qua, Precossi. Precossi è il figliolo di un fabbro che beve e sovente maltratta la famiglia. Ecco perché erano tutti commossi. Precossi, ti do la medaglia. Nessuno è più degno di te di portarla. Non pensate che allo stato del diritto, per come sono messe le cose oggi, questi illuminati ed eccelsi maestri del libro cuore non potrebbero più esercitare, non potrebbero dare la medaglia a Precossi, non potrebbero dire a Garrone tu sei un animo nobile, non potrebbero accarezzare il muratorino rimanendo con la traccia di calcina perché aiutava il padre, e non potrebbero fare nulla di tutto questo, perché almeno potrebbero farlo soltanto se si mettono in regola con la legge e producono un certificato che loro non hanno avuto, condanne per nessuno dei reati di cui gli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinques fino a 609 undicies del codice penale, cioè non hanno mai compiuto o perlomeno non sono mai stati condannati per reati di pornografia, prostituzione, adescamento e violenza ai danni di minori. Cosa è accaduto? È divertente, è da riflettere, infatti oggi vorrei riflettere con gli ascoltatori soprattutto, che possono chiamare all'800240024, su una questione sollevata da un pezzo sul giornale di ieri che mi ha molto incuriosito. Allora, tutto accade il 28 febbraio quando il Consiglio dei Ministri vara un decreto legge 39, sull'attuazione giusta, lecita, di una direttiva europea, la 93 del 211, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile. Importantissima legge contro appunto la pedofilia, lo sfruttamento dei minori, l'adescamento e via dicendo. Ma i nostri legislatori sono andati un pochino forse oltre quella che era l'indicazione europea. Si parte dall'idea che i pervertiti, naturalmente, dove vanno? La faina va dove ci sono le galline, quindi chi già ha delle tendenze rapina nei confronti dei minori, normalmente si trova un'occupazione che si tenga vicino, quindi non è detto questo categorizzi immediatamente come pedofilo ogni operatore sociale che si occupa di ragazzini, e comunque sia, è facile che se uno è pedofilo vada a fare l'allenatore di squadre sportive giovanili, vada a fare l'educatore, vada a fare l'intrattenitore, insomma cerchi il più possibile di stare vicino ai bambini. Quindi cosa ha detto il legislatore? Ha detto che chiunque d'ora in poi farà un lavoro di questo tipo, cioè che lo tiene a contatto con minori, dovrà produrre appunto un certificato penale che attesti che lui non ha avuto condanne per reati di questo tipo, cioè pedofilia, pornografia, adescamento minori. E questo significa che questo certificato penale deve essere, secondo la legge, richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie, quindi anche volontari, che comportino contatti diretti e regolari con minori. E quindi facciamo un po' di esempi. Maestre d'asilo lavorano con i minori, intrattenitori di campi estivi di ragazzi lavorano con minori, suore che hanno un asilo, suore, frati, preti, tutti quelli che hanno, boy scout, chiunque fa il capo scout deve avere il certificato penale, ma non so, andiamo avanti, qualsiasi prete che abbia a che fare con i chierichetti, che faccia il catechismo, un catechista deve portare il certificato. Ma non è solo questo il problema, perché la legge europea non dice questo, dice che i datori di lavoro possono richiedere questo tipo di, fare questo tipo di indagine, non è che è obbligatorio, quando invece per Italia è proprio obbligatorio. Il problema è che improvvisamente chiunque gestisca un'attività che ha contatto con minori, immaginate il volontariato, immaginate le cooperative che si occupano di sociale, che si occupano di bambini e via dicendo, è entrato nel panico, sta cominciando a chiedere a tutti i casellari giudiziari delle varie città, ma cosa dobbiamo fare? E qui sorge un problema, perché non esiste una un meccanismo informatico che permetta comunque di selezionare reati. Se io chiedo il casellario giudiziario di Intonti o di Chiappini che mi stanno assistendo in questa trasmissione, ho naturalmente tutti i reati per cui sono stati condannati, quindi non so, guida con alcolismo, truffa aggravata, fuga dai propri, non lo so adesso esattamente, non è che selezionato, quindi questo è un grosso contrasto. Io posso chiedere il certificato penale per vedere che non sia stato condannato per pedofilia, però magari viene fuori è stato condannato per furto di caramelle, e questo va contro naturalmente la tutela della privacy di questa persona. Questo mi pone veramente un problema. Io vorrei sentire voi come la pensate da questo punto di vista, e vorrei capire anche qual è il punto di vista delle persone che hanno le mani in pasta nel sociale. E quindi sento un amico, Stefano Trasatti. Buongiorno. Stefano Trasatti è direttore di Redattore Sociale, che è la prima agenzia, forse l'unica agenzia che concretamente tutti i giorni si occupi di sociale, quindi ha un contatto diretto con tutte le persone che lavorano nel terzo settore. Tu hai avuto notizia di questa improvvisa legge, e qual è stata anche dai tuoi punti d'osservazione la ricaduta nelle infinità di realtà che si occupano di sociale, quindi stanno vicino ai ragazzi, che oggi dovranno avere questa ambigua obbligo di produrre un certificato penale o richiedere un certificato penale che in realtà non si può richiedere, anche perché un datore di lavoro non può fare indagini di questo tipo sulle persone che chiama a lavorare con sé. Sì, improvvisa appunto, perché come un fulmine a ciel sereno, se ne stanno rendendo conto proprio in queste ore, e nel mondo delle pensiamo solo alle comunità di accoglienza per minori, che sono circa 2.000-3.000 in Italia, c'è un po' il panico, perché ci se ne è accorti improvvisamente, la scadenza è il 6 aprile, per avere un certificato ci vogliono, a volte ci vuole anche qualche giorno, ci vogliono dei soldi, ma soprattutto, come detto, se uno è capo scout, se uno fa lo scout e sta lì a un campo con i minori, ma chi è il suo datore di lavoro? No, ci sono una serie di incomprensioni, una serie di aspetti da chiarire. Scusa Stefano, ma varrebbe anche per ogni babysitter, per ogni educatore, certo, per ogni assistente? Una mamma si prende una babysitter a ore, dovrebbe chiedere il certificato in teoria. Beh, in teoria sì, oltre che per tutti gli insegnanti, che sono veramente la grande massa delle persone interessate. Nelle scuole, in molte scuole c'è un po' il panico, si cerca di capire. Uno che ha sollevato tutti una parte di questi dubbi è un deputato, Edoardo Patriarca, che però è anche un operatore del sociale, è stato portavoce del Forum Terzo Settore e molte altre cariche. E lui solleva tutti questi dubbi, interrogativi, fermo restando che combattere la pedofilia resta la priorità, però solleva una serie di problemi di burocrazia. Per esempio c'è un aspetto: il casellario giudiziale viene aggiornato ogni 6 mesi. Questo che significa? Che ogni 6 mesi bisogna richiedere il certificato, o poi questo termine è il termine da cui si parte, oppure è entro il quale bisogna consegnare questo. Insomma, c'è una serie di, un po' all'italiana, no? Di dubbi di cui ci si accorge nelle ultime ore, generando confusione, insomma una scena un po' già vista. 800 24 0024, vi siete resi conto voi che operate comunque a contatto con minori che entro il 7 aprile dovete produrre questo certificato? Vi siete resi conto voi che avete attività, cooperative, associazioni, oratori, che occupate comunque il vostro tempo a contatto con i minori, dovrete dimostrare con certificato penale che non siete mai stati condannati per pedofilia? E quali sono i problemi da un punto di vista proprio giuridico, o proprio di tutela la propria privacy, che comporta comunque questo provvedimento? Avvocato Giuseppe Vaciago, buongiorno. Buongiorno. Giuseppe Vaciago è partner dello studio Rep Legal, esperto in diritto penale delle nuove tecnologie, un avvocato si è sempre occupato comunque del diritto legato ai temi della privacy. Come vedi, Giuseppe, questo tipo di argomento che stiamo parlando, che coglie tutti di sorpresa? Lo ammetto, anche me. Però devo dire che diciamo, ci sono degli aspetti devono sicuramente subire delle modifiche, cioè adesso diciamo, non parliamo soltanto di privacy, ma parliamo anche dello statuto dei lavoratori, cioè di tematiche che si sono consolidate negli ultimi 40 anni e che vengono spazzate via con un decreto legislativo in attuazione di una direttiva europea. Che non dice poi, che non è esattamente poi così vessatore, non è un obbligo, dice no, potete rendervi conto se è successo qualcosa. Ma nell'iter dell'iter di un certificato, scusami, se io per paradosso fossi condannato o fossi perlomeno inquisito, denunciato, arrestato, poi rilasciato per i termini di legge, dopo quanto tempo, quanti passaggi giudiziari e processuali veramente apparrebbe nel mio certificato penale che ho fatto quel reato? Ecco, questa è una domanda importantissima, anche perché facciamo l'esempio che io venga arrestato per un procedimento di pedofilia, quindi una situazione molto grave, però non c'è nessuna sentenza definitiva, il casellario dei carichi pendenti, cioè il certificato dei carichi pendenti risulterebbe positivo, ma non il casellario giudiziale, quindi anche lì si potrebbe porre una situazione dove adesso anche di arresti domiciliari, di braccialetto elettronico, adesso che si parla anche di braccialetto elettronico, ma comunque con un casellario, permettetemi il termine, pulito. Quanto tempo passa è variabile in relazione anche all'organizzazione del sistema giudiziario, ma può passare del tempo, e quello è un tema molto importante. Poi era stato sollevato prima il tema dei 6 mesi, cioè il fatto dell'aggiornamento, quindi è chiaro che ci sono un insieme di problemi organizzativi, oltre che di privacy, oltre che di diritti fondamentali dell'individuo, del lavoratore, che vengono ad esserci. Mi sto chiedendo io se non può essere una soluzione, ai sensi anche della Bassanini, un'autocertificazione, che prima di tutto è assolutamente, garantisce maggiore privacy, perché quindi non è una cosa che viene chiesta da un ente terzo, garantisce il fatto che non ci sia la visualizzazione di altre tipologie di reato, come tu dicevi giustamente prima, Gianluca, e soprattutto è anche una dichiarazione che prevede delle responsabilità penali se fosse falsa. Quindi uno potrebbe autocertificarsi e stare a posto, in teoria? Questo per me è una soluzione. Da lì a dire che si possa, bisognerebbe fare un colpo di telefono al legislatore, scusami la battuta, cioè certo. Non è che, perché uno deve leggere anche il testo di legge, però dico, io mi sembrerebbe più logico, ecco, pensare all'autocertificazione, non so come la vedi tu, Gianluca. Sentiamo un attimo il panico come si sta diffondendo. Giuliano, autista di scuola bus. Sì, buongiorno a tutti. Gli si sta procurando il certificato? No, materialmente c'è stato un battibecco con il segretario comunale. Ma quindi ne avete parlato? Gliel'ha chiesto? Dice, porta il certificato. No, era raccontare degli aneddoti particolarmente curiosi nei confronti della vitalità dei ragazzi su uno scuolabus. Sono di una effervescenza eccezionale, ma anche pericoloso sotto il profilo, come dire, a sfondo scabroso sessuale, perché con dei ragazzini di 13-14 anni raccontare determinati aneddoti viene da pensare di essere malati di mente. Lei ai termini di legge dovrà produrre questo certificato. Ma adesso io non mi preoccupo più, però materialmente stare vicino a determinate figure, non dico di rimanere coinvolti, però che abbiano un carattere particolare non si discute. Sì, vabbè, fa parte delle capacità professionali, che fa un lavoro come il suo. Se i ragazzini dicono cose zozze, non è che lei deve essere coinvolto, sennò ha sbagliato mestiere. Si tratta di sminuire quella che le figure che vogliono. Ma lei ha avuto problemi per questo? Ha avuto problemi? È stato mandato via per qualche motivo? No, assolutamente di nessun genere. Sì, poi lei dice, ma è chiaro che. Caro amico, è chiaro che è un lavoro delicato chi sta a contatto con i minori poi oggi che non sono più quelli del libro cuore, è doppiamente delicato. Quello che ci domandiamo è se questa iniziativa del legislatore poi migliori le cose o in realtà crea ancora più problemi. Ma riprendiamo l'argomento fra un istante, dopo il traffico. Melog, cronache meridiane. Ecco che arrivano i primi nodi. Stefano, buongiorno, dirigente sportivo. Pronto, buongiorno Nicoletti. A lei tocca fare il certificato, eh? Ma toccherà a tutte quelle persone che collaborano, lavorano con noi. Ma chiunque, anche chi pulisce i gabinetti degli spogliatoi, secondo me, perché lì sta a contatto con i ragazzi. Ma io penso anche solamente a quel genitore che si presta ad accompagnare i figli di altri alla partita, giusto. Piuttosto che all'evento sportivo. Pensa, mi stanno chiedendo delle catechiste, tocca anche a noi, sì, anche alle catechiste, certo. Ma io penso che sia questo decreto sia stata la solita italianata. Cioè tutte le suore d'Italia tocca, ogni suora d'Italia che ha a che fare con dei bambini deve portare il certificato. Suora, ogni prete che fa c'è una costellazione di persone che ha a che fare col mondo dell'infanzia a tutti i livelli. Ogni parroco che fa il catechismo deve portare il certificato, è giusto. Io però guardi, penso solamente che sia stata la classica italianata creata così, cioè fatta, l'Unione Europea ce lo consiglia, ce lo dice, noi partiamo e facciamo in tromba senza che nessuno pensi che ci sono mille difficoltà, quindi magari prima di fare un decreto legge sentire gli settori interessati. Stefano, mi faccia una cortesia, mi spieghi il suo problema concreto. Lei, da quando ha avuto notizia di questa cosa, fosse anche adesso in questo momento, come si attrezza con tutte le persone che comunque hanno a che fare con lei nella sua concreta, reale, stretto giro professionale? Allora, la prima cosa che noi abbiamo fatto, noi siamo stati avvisati venerdì dalle associazioni da alcune associazioni di categoria, continuano ad arrivare ogni giorno questi gli avvisi che succede questo, chiaramente i tempi ristrettissimi, dico solo a Milano, per chi richiede il certificato penale ci vogliono 15 giorni senza procedimento d'urgenza e sono oltretutto 16 euro di bollo e 3,50 euro di riti segreteria. Ma lunedì che fate? Lunedì se non avete certificati che fate? Non lo so, guardi, noi in questo momento ci siamo rivolti a tutte le associazioni, a tutte le federazioni chiedendo di quantomeno di dilatare i tempi, perché è assurdo, è impossibile, è tecnicamente impossibile, pubblicato il 22 marzo sulla Gazzetta e mi dai 15 giorni, perché il 6 di aprile sono 15 giorni di tempo per ottemperare, e mi sembra un'assurdità. E quello che a me fa specie è anche che facendomi solamente due conti lo Stato da questa situazione dovrebbe incamerare una venticinquina di milioni, non pochini. Allora quindi un'idea per raggranellare un po' di soldini, guardi Dario, non mi viene quasi da pensare che sia che gli famosi 80 euro che devono redistribuire solo per il posto dove arriva. Guarda, c'è un altro ascoltatore che ci pone un altro problema, vediamo se lo recupero, che mi diceva allora tutti i medici e tutti i pediatri avranno lo stesso problema perché si occupano i bambini e quindi avranno anche loro questo problema. Vediamo Dario allora. Dario, è caduta, sì, buongiorno, bellissimi ascoltatori, buongiorno, sono Dario, un giovane imprenditore di anni 30 dalla Sardegna. Purtroppo ci ritroviamo all'ennesima bufala, chiamiamola così, del popolo, del governo italiano, cioè con la gravità in cui versa l'Italia adesso si preoccupano e sprecano una giornata o forse più per diciamo così, fare un decreto legge che ti obbliga a un certificato di pedofilia. Ma ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando? Attenzione, i bambini è un argomento molto molto molto delicato, però io penso che adesso come adesso ci sia ben altro a cui pensare, cioè salvare le aziende, salvare le persone che si uccidono per la crisi. Sì, ma adesso non facciamo di nervo a fascio, parliamo di questo, è vero, ci siamo mille di problemi, è un problema comunque va affrontato, è stato affrontato in questo momento, ci sembra di capire, in maniera un po' affrettata, sono sorti dei problemi che vanno comunque dipanati. Piero, ecco la domanda di prima, Piero. Buongiorno. Pronto? Sì, qual è il punto pronto, secondo buongiorno. Lei? No, io volevo fare osservare semplicemente che questa normativa interesserà anche lo Stato, in particolare il sistema sanitario nazionale, perché tutti i medici pediatri, tutto il personale infermieristico che lavora negli ospedali con i bambini e via discorrendo, ci sono infiniti esempi, un numero enorme di persone, in teoria dovrebbe essere altrettanto... Viene in mente, io ieri sono stato a fare una conferenza al Bambino Gesù, che è un grande ospedale punta d'eccellenza nella sanità romana, che si occupa di ragazzi, ma tutti i neuropsichiatri, tutti i pediatri dovranno comunque portare questo certificato. Immagino di sì. Avvocato Giuseppe Vaciago, come vedi più andiamo dentro il problema più ci rendiamo conto che è molto difficile che poi si ottenga lunedì l'allineamento generale totale alla legge di tutti quelli che hanno a che fare con bambini. Sì, mi senti? Perché forse sono un momento di chi ha poco campo, però volevo dire solo una cosa, che appunto oltretutto io vedevo le sanzioni sono anche abbastanza importanti, perché sembrerebbe che ci sia una sanzione amministrativa che va da 10.000 a 15.000 euro nel caso di non ottemperanza, di fronte ad una oggettiva impossibilità di ottemperare in tempi brevi. Quindi io effettivamente non posso che essere concorde sul fatto che il legislatore, prima di appunto, oltretutto una direttiva, mi permetto anche di aggiungere che conosco benissimo, perché il tema della pedopornografia io lo seguo da anni, perché c'è tutta la deriva poi della pedopornografia online, è una direttiva del 2011, oggi siamo del 2014, cioè noi ci mettiamo 3 anni per applicare la direttiva europea e dopo però diamo 15 giorni al cittadino per adeguarsi ad una, secondo me, comunque incostituzionale procedura, perché è contro i diritti fondamentali dell'individuo, punto. Non c'è molto da discutere e mi sembra che siamo tutti d'accordo su questa situazione. Cioè, cosa diranno i sindacati, di un'organizzazione pubblica quando verranno i loro iscritti, diranno vado a portare il certificato antipedofilia perché me l'ha chiesto il nostro datore di lavoro? È pazzesco, ma più che altro vorrei chiedere perché mi date 2 settimane per farlo e ci avete messo 3 anni per applicare quella direttiva, visto che era 3 anni comunque in sospeso, ripeto, una direttiva comunitaria del 2011. Sentiamo Nadia, sentiamo Nadia, un secondo Giuseppe. Nadia, buongiorno, ex insegnante. Sì, buongiorno, guardi, buongiorno a tutti, volevo semplicemente portare una mia testimonianza di quando, 40 anni fa, ho partecipato al concorso a cattedra, sono un insegnante in pensione adesso, e ho dovuto esibire, tra tutti gli altri documenti, anche il certificato del casellario giudiziario e anche l'esito della prova Wasserman. Questo poi mi è stato richiesto. Addirittura che non avesse la sifilide? Sì, all'epoca era così. Poi non soltanto al momento dell'iscrizione al concorso, ma anche dopo averlo passato, quando poi sono passata di ruolo, mi sono stati richiesti gli stessi documenti. Cioè scusi, la prova Wasserman come si faceva alle signorine delle case di tolleranza? Ma guardi, insomma, era il 74, non parlo di... Ma meraviglio che fosse il 74, come gli anni della rivoluzione, gli anni di piombo, le donne in piazza, l'utero mio lo gestisco io, e alle insegnanti veniva chiesta la Wasserman. Sì, agli insegnanti per passare di ruolo era richiesta la Wasserman. Giuseppe Vaciago, ferma un attimo Nadia, Chiara ha già detto la cosa. Giuseppe Vaciago, come commenti questa telefonata? Commento che è quello che ho detto prima, sono 40 anni di lotta per riuscire a raggiungere una situazione di equilibrio, ripeto, non solo dal lato privacy, ma dal lato dei diritti fondamentali dell'individuo, e poi l'applicazione di una normativa comunitaria ci fa tornare 40 anni indietro. Adesso non siamo al livello di 40 anni fa, però forse insomma abbiamo fatto sicuramente un passo decisamente indietro. Marco, buongiorno Marco, velocemente. Sì, buongiorno Nicoletti. Dica la sua perché stiamo per chiudere. Sì, me lo dicevano. Semplicemente ero un po' sorpreso del fatto che lei si sorprendeva se qualcuno chiede il certificato penale e vede che magari è stato commesso qualche altro reato differente da quello richiesto ai fini di valutare la posizione della persona. Ma si fa in tutti i concorsi pubblici. Poi io ritengo che, a prescindere da questo, visto che io do il lavoro a qualcun altro, occorre che questa persona mi ispiri fiducia, ma soprattutto ritengo che quando c'è la privacy va comunque bilanciata con altri interessi, e qualora l'interesse a cui bisogna bilanciarlo è superiore rispetto alla privacy, la privacy perde di... No, io ponevo soltanto un problema tecnico, cioè non è possibile selezionarlo, si fa la domanda per una cosa e in realtà se ne dà anche un'altra, e questo è il fatto, è chiaro, uno può chiedere il certificato e dire te lo do, non te lo do, non faccio questo tipo di lavoro, e che tu lo chiedi per un reato specifico, in realtà ci sono anche tutti gli altri, e la legge dice che deve essere specifica e informata. Grazie a tutti, lo riprendiamo l'argomento perché secondo me non finisce qua.